Pronto, allora torniamo in diretta, interrompiamo lo studio di patata momentaneamente perché sta succedendo qualcosa davanti alla Biblioteca Nazionale. Pronto, ci senti? Sì, sono qua. Ciao, senti, oggi pomeriggio era stata indetta un'assemblea alla Biblioteca Nazionale contro i tagli e la chiusura di vari servizi e la precarietà anche delle persone che lavorano là dentro. Però non vi stanno facendo entrare, che succede? No, siamo arrivati, abbiamo trovato quattro persone della polizia e un centinaio minimo, più o meno, di insomma polizia schierata davanti alla biblioteca, e ci hanno detto che non ci fanno entrare perché sono rotti i tornelli. E le persone che stanno dentro? Perché sono rotti i tornelli, sai quelle cose in cui si gira per entrare? Sì, presente. Hai capito? Adesso credo stiamo facendo una passeggiata in strada. Stiamo andando a fare una passeggiatina in strada. Ho capito. Senti, ma le persone che stanno dentro invece hanno detto che stanno prendendo documenti? Le persone che stanno dentro, cioè no, nessuno di noi che dobbiamo entrare per l'assemblea, i lavoratori che stanno dentro si stanno lamentando moltissimo perché ovviamente stiamo occupando la strada. Ho capito. Via di Castro Pretorio. Non l'hanno fatto entrare perché, cioè, loro sono arrabbiatissimi col direttore perché questa è interruzione di pubblico servizio, non fare entrare vuol dire questo. Certo. Capito? Adesso ci stiamo sedendo in mezzo alla strada simpaticamente e quindi siamo qua, assieme a loro in questo momento. Allora, vuoi che invitiamo anche altri compagni e compagne a unirsi a voi in questa lotta? Sì, adesso, sì, a Via Castro Pretorio, alla Biblioteca Nazionale, quindi. Alla Biblioteca Nazionale. Perfetto, io vorrei anche ricordare che c'è uno streaming che sta andando sul sito teatrovalleoccupato.it/streaming. I compagni e le compagne che vogliono seguire, che non riescono ad andare, possono seguire direttamente da internet. Senti, okay, io direi che si stanno avvicinando le forze dell'ordine, capiamo un po'. Ho capito, va bene, senti, allora ti rimaniamo assolutamente aggiornate, ci risentiamo tra pochissimi minuti. Ok, ciao. Va bene, grazie, ciao.